La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 4 di dicembre, vi dico subito, è una puntata particolare e ci capita ogni anno, perché ogni anno nei giorni, a seconda di come capita, nei giorni della settimana, quando ci si avvicina a Sant'Ambrogio, quindi la festività del patrono qui di Milano, il cardinale arcivescovo di Milano, Sua Eminenza Angelo Scola, ci regala un appuntamento di riflessione annua, perché in occasione del discorso a tutti i milanesi, il discorso pastorale alla chiesa di Ambrosiana, che pronuncia in occasione appunto delle festività che ricordano Ambrogio, vescovo e dottore della chiesa. Prima funzionario imperiale, Ambrogio era questo, poi convertito, è diventato una delle figure di riferimento nel pensiero cristiano. In occasione di questo discorso che rivolge alla città, alla società italiana, ci sono dei punti che riguardano di anno in anno nella riflessione del cardinale tutti noi, la società civile, che riguardano i credenti ovviamente, ma anche i non credenti, che riguardano gli italiani, che riguardano gli immigrati, tutti coloro che compongono la nostra comunità. E allora anche quest'anno, e la puntata è oggi, perché è oggi più tardi, tra poco, che il cardinale Angelo Scola, in occasione dei vespri, dei primi vespri della solennità, che poi Sant'Ambrogio lunedì, come sapete, il giorno prima l'8 dell'Immacolata, e poco prima di pronunciare questo discorso viene ad anticiparcene dei tratti. Io lo ringrazio molto Eminenza di essere con noi anche quest'anno. Grazie a lei e della sua gentilezza, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, quest'anno il suo intervento ovviamente è incardinato, perché è iniziato in Centrafrica, anche quella è una forte innovazione, l'anno santo straordinario che Papa Francesco ha dedicato alla misericordia. Certo. E la sua riflessione, però, devo dire che a me ha interessato tantissimo, adesso vediamo gli ascoltatori, è quello di incardinare una riflessione sul rapporto tra la giustizia e la misericordia. Mentre è evidente per chiunque sia cristiano o meno lì, la centralità della misericordia per la lezione evangelica di Cristo e così via, il collegamento con la giustizia, che riguarda principi e regole condivise della comunità, è proprio la volontà di entrare, per così dire, nella vita di ciascuno di noi e come appartenente della comunità. Allora io inizio da questo tema della giustizia nel farle una domanda, perché apparentemente tutti siamo d'accordo nel definire che cos'è la giustizia in una società. E anche lei dà una definizione, apparentemente può sembrare che l'idea di giustizia è quella di rendere a ciascuno il suo, però il problema è che quando si tratta in società moderne di assistere all'evoluzione del fatto che ciascuno pretende di far fiorire molteplici diritti su questa o quella categoria, ecco che la possibilità di definirli e garantirli davvero diventa un problema. Io nel dare la parola su questo, io ricordo ai nostri ascoltatori che attualmente, per esempio, mi sono andato a fare una ricognizione delle proposte di legge su nuovi diritti da introdurre nel nostro ordinamento. Ne cito alcuni a caso: diritto allo sport, diritto alla bellezza, diritto al voto ai 16 anni, diritti degli animali, attuazione delle carte del diritto del malato, del bambino, dell'alunno, dell'anziano, dell'automobilista, del pedone, del ciclista, dello spettatore, del turista, del lettore, e potrei continuare, cioè ci sono due pagine intere di progetti di legge che enumerano tutti questi diritti. Allora, in realtà abbiamo scoperto che l'idea di diritto è facile definirla a parole, ma di fatto è diventata una foresta che dimentica, primo, che tutti questi diritti hanno un prezzo, secondo, stiamo scoprendo nella bioetica, in queste questioni, che in realtà sono diritti che apparentemente vedono tutti d'accordo, ma in realtà spaccano e dividono. No, certo, questo è un aspetto fondamentale che deriva proprio dalla delicatezza del rapporto diritto, doveri e leggi, che si incardina appunto nella questione della giustizia. Io credo, almeno questo è un tipo di riflessione che vado facendo, che il progressivo individualismo della nostra società porti a trasformare tutte le richieste che il singolo si trova dentro in una domanda di diritto che non è sempre agganciata, tra l'altro, all'aspetto inevitabile del dovere, ma che reclama l'universalità di una legge. È come se ci fosse un salto tra la richiesta che io mi trovo dentro e che, come lei giustamente ha mostrato, può essere di qualunque tipo e può avere una consistenza più o meno universale, e chiedo che l'autorità istituzionale me la garantisca rendendola obbligatoria per tutti. Io penso che questa sia l'espressione di una... Lei usa una frase forte a questo proposito, perché dice: se andiamo avanti ancora su questa strada, sì, la vita sociale rischia, parole sue, di ridursi a una specie di joint venture di individui. Sì, perché uno non può annullare l'elemento relazione, perché il diritto e la giustizia si attestano proprio nel fatto che debbono generare relazioni buone e rispettose per tutti, ma mancando il senso della incompletezza, diciamo così, dell'umana giustizia e riducendo in termini individualistici il diritto, allora di fatto si instaura un clima per il quale ci si mette d'accordo in forma sostanzialmente privata con taluni altri affinché il diritto sia riconosciuto, salvo poi nel tempo tenersi la possibilità di reclamarlo dal punto di vista legislativo da parte di coloro che hanno il compito, appunto, di guidare e di governare la società, insomma. E sempre a proposito di giustizia e di diritto, c'è una domanda che io le voglio rivolgere. Noi siamo abituati a ripetere che, per esempio, una delle caratteristiche della giustizia è il fatto che si debba fondare sulla certezza del diritto. Certo. Va bene, nel nostro ordinamento ci sono 3 gradi di appello, 2 di merito e 1 di legittimità, però alla fine tutti lamentano, in occasione di innumerevoli processi che possono riguardare qualunque vicenda, in Italia non c'è la certezza del diritto, troppe leggi, sentenze che ribaltano tutto. Allora, a me questa cosa nel tempo mi ha posto un interrogativo. Viviamo in un mondo nel quale la scienza, cioè l'epistemologia, è giunta alla rassegnata conclusione per cui la stessa conoscenza scientifica, in realtà il principio di indeterminazione è così, è un processo aperto, non ha certezze. Bisogna di volta in volta porsi un problema e verificare se chi si oppone a queste certezze ha ragione o torto. Invece pretendiamo nella giustizia che una sentenza sia la certezza, la verità. Questo a un uomo di fede che problemi pone? Questo mi pone un problema molto grave, cioè vale a dire, mi pone il problema che noi non riconosciamo più il nostro limite e quindi l'incompletezza della giustizia umana, che proprio per questo domanda un ulteriore passo, ed è qui che possiamo aprirci alla misericordia praticata anche, tra virgolette, laicamente, anche se realizzata in maniera potente nell'offerta totale della propria vita che Gesù fa per la salvezza di ogni uomo. Cioè la misericordia ha un'affinità con la giustizia, anche se in certi momenti può sembrare in conflitto con essa, perché ci sono a prima vista dei mali, pensiamo alla terribile ed orrenda espressione terroristica, che sembrano in un qualche modo mai giustificabili, non so come dire, ai quali non si può dare giustizia. E allora bisogna che questo limite della giustizia, che è individuato anche dall'affermazione classica che il massimo diritto può diventare la più grande ingiustizia, trovi una via di completamento, e la misericordia è proprio questa via, perché mantiene un'affinità con la giustizia, cerca il bene sociale, però non si fonda più soltanto sull'applicazione meccanica di un sistema pur necessario precostituito di leggi, ma si prende il rischio di una iniziativa gratuita, il rischio del dono, vuole cercare relazioni buone anche al di là di ciò che è il giusto solo umanamente parlando. E devo dire che da questo punto di vista, per esempio, la modalità con cui dopo il 2013, e faccio cenno nel mio discorso che farò fra poco, a questo dato, con cui si sta cercando di valorizzare, con tutti i limiti che l'espressione ha, il valore medicinale della pena per i carcerati, è un segno che va in questa direzione, che tra l'altro mostra la grande efficacia di questo uso medicinale anche dal punto di vista di evitare la recidiva e quindi di rigenerare, perché questo è lo scopo, rapporti sociali buoni anche dentro una società plurale. Insomma, quindi secondo me le cose che lei dice domandano che questo nesso, pur nella sua tra misericordia e giustizia, che può sembrare conflittuale, sia comunque esperito sempre di più a livello sociale, ma questo implica un rischio della libertà verso il dono. Il dono è un'iniziativa che non viene di per sé dalla giustizia, come quella di un familiare che perdona l'uccisore di una vittima, è un'iniziativa in più. Ecco, noi abbiamo bisogno, per la vita buona della nostra società plurale, che ogni cittadino in libertà, ovviamente, tenda sempre di più a vivere questa componente, che come cristiani questo è il grande messaggio che Gesù ci ha lasciato. Dopo bisogna intendersi su cos'è la misericordia. Certo, allora lei proprio a proposito del dono, riconosce, ripete il fatto che il dono è appunto una categoria che postula anche la possibilità della scelta di un sacrificio supremo, del darsi integralmente. Questo può essere il sacrificio della propria persona, dei propri beni, può essere un amore condiviso per tutta la vita, ma insomma un sacrificio. Questo con la giustizia non può essere imposto a tutti. Ma io le faccio un esempio proprio di temi che lei tocca nel suo intervento, perché lei parla degli immigrati, parla del terrorismo. Oggi lo sa meglio di noi, in realtà la reazione dell'opinione pubblica ai fatti di terrorismo, ai rischi che tra gli immigrati ci siano degli affiliati dell'islamismo e così via, è quella di dire: cacciateli fuori, via, lontano da noi, in galera, eccetera eccetera. Allora, purtroppo o per fortuna, io questo non tocca a me dirlo, però la reazione è questa, ed è ovvio che è molto lontana da quello che lei scrive. Ecco, però questa è la reazione della paura, che io comprendo, che dobbiamo comprendere, ma che dobbiamo però interpretare attraverso uno stile di vita sociale accurato. Il problema, cioè, dobbiamo superare la questione del noi e loro, perché in realtà, per storia e per attualità, la questione degli immigrati riguarda tutti, riguarda me, riguarda lei, riguarda i nostri fratelli che di altre religioni, eccetera, che vengono qui non a caso. Vengono qui dentro la prova della mancanza, del rischio della loro vita, della fame, della miseria, eccetera eccetera. Secondo me, questo lo dico anche sulla base dell'esperienza che ormai da 14 anni faccio con il centro Oasis per la conoscenza tra l'Occidente e i diversi Islam. Questo è un punto equivoco. Siccome abbiamo ignorato in tutti gli ultimi decenni la situazione degli Islam nelle varie regioni del mondo, in particolare nel Medio Oriente, e come certe fatiche e certe dialettiche anche feroci siano conseguenze anche di responsabilità molto precise da parte dell'Europa, adesso ci troviamo di fronte a questo fenomeno tragico, terribile, che dobbiamo assolutamente combattere attraverso una ricerca di senso profonda. Lo viviamo come una cosa improvvisa e non siamo più capaci di accoglierlo nella sua valenza storica e nella sua valenza presente. Allora, la paura in questi casi è cattiva consigliera. Certamente tutto questo implica ormai la costruzione di un nuovo ordine mondiale. Mondiale, infatti su questo. Io voglio dire a chi ascolta che se ascoltate o leggete il testo dell'intervento di Sua Eminenza Scola, vedrete che non è che viene nascosto o sottaciuto il rischio ci siano dei fenomeni gravissimi sui quali lo Stato, le istituzioni, tutti noi dobbiamo sorvegliare. E l'idea però è che a questo aspetto va sempre affiancata un'idea di comprensione e di integrazione che operi davvero. Allora, questo operi davvero, io ricordo a chi ci ascolta, noi viviamo in un paese che da quando l'emergenza dell'immigrazione è scoppiata all'inizio degli anni 90, noi abbiamo un sistema che è evoluto nel tempo per salvarli nel Mediterraneo e i primi centri di accoglienza. Dopodiché lo Stato italiano devolve ai comuni e alle autonomie modelli diversi di come farcela dopo che ha assegnato loro le quote. Noi in realtà continuiamo, dopo più di 20 anni che siamo diventati frontiera dell'Europa, a non avere identificato in cosa consiste il nostro modello. Quelli degli altri grandi paesi hanno dei limiti e sono alla corda, quello francese, quello degli ex imperi coloniali, quello britannico, sentite cosa ha detto Cameron, quello tedesco che era nato negli anni 50 con i Gastarbeiter, cioè i lavoratori stranieri, prima gli italiani e poi i turchi, ma noi in 20 anni non siamo riusciti a capire qual è il nostro, e questo credo che sia alla radice di un grande problema, di una grande mancanza pubblica, di spirito pubblico, della politica, dello Stato. Torniamo tra un minuto con Sua Eminenza Scola, intanto le informazioni sulle strade. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta con l'arcivescovo cardinale di Milano, Sua Eminenza Angelo Scola, che in occasione del discorso che rivolge tra poco, il discorso pastorale a Milano, a tutta la città, lunedì è Sant'Ambrogio, è incardinato sulla misericordia per l'anno santo straordinario dedicato da Papa Francesco a questo tema, però connessa alla giustizia, alla scelta che dobbiamo fare tutti nella nostra società civile e pubblica, e abbiamo già visto un po' di intersecazioni. Io vorrei, Eminenza, toccare un'altra categoria fondamentale, quella del perdono, perché il perdono, insomma, a parole tutti dicono di, ma di fatto poi non è così. Lei richiama parole pesanti e fondamentali per ogni cristiano, quelle che Cristo in croce, rivolgendosi al Padre, la me, sabachthani, cioè perché mi hai abbandonato, e dice in realtà anche in quel caso la richiesta rende significativo il fatto che la redenzione è inseparabile dalla contrizione. Esattamente, cioè questo è un punto realmente delicato, e cioè fa parte di quel rischio che nella misericordia la libertà deve assumersi. Questo lo vediamo esemplificato in Gesù: non conosceva peccato, si fa trattare come peccato e fa l'esperienza terribile di lontananza dal Padre per il peccato, a tal punto che trasforma in preghiera il Salmo: perché mi hai abbandonato? È come una preghiera carica di domanda verso il Padre, e dentro questa domanda c'è la domanda che ognuno di noi, guardando ai propri limiti, le proprie colpe, quando è onesto e le riconosce, si fa: ho bisogno di essere salvato, cioè di essere di nuovo rimesso in movimento, che io possa vivere nonostante il male che ho commesso. E la misericordia di Dio mi anticipa, così come l'atto misericordioso del fratello, fosse pure non credente, mi anticipa, mi aiuta a riconoscermi peccatore e quindi a immettere in me il moto della conversione. Insomma, con la misericordia Dio non usa il colpo di spugna, perché ha troppo rispetto della nostra libertà. E quindi ci ha fatti in modo tale che noi si possa rendere conto del male che abbiamo fatto, e da quel male, grazie alla sua gratuita iniziativa, chiediamo di poter uscire. Infatti la figura morale più adeguata al cristianesimo è la ripresa, non è neanche l'impeccabilità che è evidentemente un ideale, ma spesso sbagliamo, spesso sbagliamo, ma c'è qualcuno che ci accompagna e questa è una grande strada per vincere la paura. Infatti sono molto contento di un dato, che in questo tempo, girando per le parrocchie, facendo vari incontri, eccetera, il termine che esce di più è il termine speranza. Noi dobbiamo lavorare su questo termine speranza. Il grande scrittore francese Peggy la definiva la virtù bambina, che tenendo per mano la fede e la carità le portava un po' dove voleva lei. Ecco, contrapporre alla paura la speranza, in modo tale che questo possa far nascere relazione nuova anche tra persone, uomini e soggetti, come abbiamo visto per esempio nel dialogo di Vita Buona fatta al Piccolo settimana scorsa, possa far rinascere il gusto della relazione e della relazione sociale, di quella che Aristotele chiamava l'amicizia civica, non soltanto di qualche relazione con i più affini e i più vicini, non delle relazioni da joint venture, ma realmente di relazioni che rigenerino il tessuto civile di questa nostra società. Penso a Milano, penso a Milano dopo l'Expo, e questo è un invito a me, a tutti noi, a non cedere sulla domanda di senso, cioè di significato del vivere, di direzione di un'esistenza, proprio per tener testa al rischio grande che la paura diventi il fattore dominante, perché la paura ci accomuna come massa, ma non ci fa popolo. No, certo. Io devo dire, ringrazio Semenza Scott per queste parole e queste riflessioni su giustizia e misericordia. Di mio ci aggiungo solo questo: io credo che sia difficilissimo in una società avanzata, moderna, democratica, fondata sulla libertà, un codice comune pubblico del perdono. Ci sono atti di fronte ai quali ciascuno non perdona se ti hanno ucciso un parente, non perdona neanche se ha commesso invece un omicidio per qualcuno che ti è entrato in casa. C'è chi si chiude nel silenzio e capisce, e c'è chi lo rivendica in pubblico. Lo dico anche rivolgendomi a Sua Eminenza relativamente all'indignazione che per esempio in queste settimane raccogliamo rivolta alle vicende degli scandali della Chiesa su cui riguardati questi due libri. La gente non ha un codice pubblico del perdono. Perché ci sia un codice pubblico del perdono, che anche secondo me è fondamentale nella vita pubblica, bisogna che ci siano buoni esempi dall'alto, sempre operanti. È molto difficile perdonare, e solo con un codice dichiarato però di pulizia che vale per tutti sarà più facile per tutti capire che bisogna anche perdonare. Grazie Eminenza, continuate con Radio 24 intanto, e appuntamento domani mattina dalle 10 alle 12 ai Conti da Belva come tutti sabato.